Buongiorno cari amici di Runtime di Quando Eravamo Futuro. Questa piccola introduzione serve per dare una piccolissima spiegazione relativa a quella che state per ascoltare. E il 5 maggio abbiamo fatto questo episodio particolare di Quando Eravamo Futuro dedicato alle disabilità. Un episodio che abbiamo voluto anche utilizzare come forma di sperimentazione nei confronti di una interconnessione tra runtimeradio.it e la nostra posizione su Twitch. Questa scelta di provare a fare questo percorso verso Twitch può essere utile per noi anche per allargare un po' il nostro campo d'azione, il nostro bacino d'utenza e metterci magari nelle condizioni di poter raccogliere un pubblico maggiore, un'interazione maggiore con le persone, che è poi alla fine il nostro scopo, la nostra finalità. Nonostante le nostre preoccupazioni, tutto sommato la trasmissione sia in termini radiofonici, quindi su runtimeradio.it, che su Twitch è andata molto bene, una gestione abbastanza fluida nonostante le mie preoccupazioni. Però chiaramente, essendo preoccupato per dover gestire questi due fronti in qualche modo, mi sono reso conto di aver commesso un errore, cioè di non aver attivato la registrazione, quella radiofonica che facciamo sempre, che poi si trasforma in podcast. Quindi sentirete la prima parte di questo episodio estratto ovviamente dall'audio della conferenza, quindi della call che abbiamo fatto. Quindi probabilmente la parte iniziale, l'audio non sarà proprio al top, così come cerchiamo insomma di portare sempre nelle nostre produzioni. Detto questo, io comunque vi auguro un buon ascolto, perché l'episodio è abbastanza interessante, ma soprattutto è molto importante anche cercare di capire in che modo è evoluto il mondo verso determinate problematiche e che tipo di sensibilità si è sviluppata poi negli anni, anche grazie insomma ad operatori come Francesco e Alessandro, che hanno partecipato a questo episodio particolare. Buon ascolto a tutti. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. Bene, carissimi amici di Runtime, benvenuti a questo primo esperimento di interconnessione, di radiovisione, diciamo così, tra Runtime Radio, quindi la nostra web radio www.runtimeradio.it, dove potete tranquillamente insomma andare e cliccare sul player e ad ascoltarci, e sul nostro nuovo canale Twitch, ovviamente su twitch.com Runtime Radio. Cercate, insomma, se trovate difficoltà basta andare sulla lente di ingrandimento e cercare Runtime Radio. In questo momento noi siamo già in live, e detto questo, scusate se insomma questa puntata non sarà il meglio delle nostre prestazioni radiofoniche, così come non saranno sicuramente il meglio delle prestazioni Twitch, perché per noi è tutto abbastanza nuovo questa cosa che stiamo facendo, e però abbiamo pensato di partire da una puntata così importante per sperimentare appunto questo mezzo. Io, per quanto riguarda me, chiaramente sono in condizioni di estrema emergenza, perché ho dovuto mettere la webcam in condizioni strane, è molto distante dal punto dove devo guardare per fare le cose, però insomma piano piano creeremo dei setup insomma validi per quei talk show che meriterebbero insomma di poter andare anche su Twitch. Detto questo, io intanto ringrazio Carlo Sant'Agostino, benvenuto, anche se lui ciao. Di archeologia informatica. Ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori nuovi da Twitch. Quanti ne avremmo da Twitch nuovi? Penso allora, zero però, stasera, però piano piano, quando si spargerà la voce, anche perché pur non avendo fatto niente abbiamo già 15 iscritti, quindi qualcuno insomma ovviamente c'è insomma. E salutiamo anche Davide Gatti, ovviamente il nostro survival hacker, quindi survival hacking. Sì, buonasera a tutti, e vediamo un po' come va questa avventura video acustica, che per tutti è una novità, e cercheremo di dare sempre il meglio, come dicevi, anche con la nostra faccia, non solo con la nostra voce. Esatto, ci mettiamo la faccia noi. Esatto. E detto questo, insomma, ricordiamo sia Archeologia Informatica che Survival Hacking sono due importanti canali YouTube, anzi in particolare Survival Hacking che ha superato i 15.000 iscritti. Bravo Davide. Oh, yes. Bravo, grande Davide. Thank you. Quindi, insomma, quando veniamo su, doppia cena di pesce, insomma. Sushi a quintali. Con profusione. E invece questa sera, per la prima volta, pur facendo parte insomma del team di Runtime Radio, per la prima volta partecipa Quando Eravamo Futuro, cioè può sembrare una cosa anomala perché è molto giovane, Francesco Lobby Frontali di Muro. Ciao Francesco. Grazie per il molto giovane. Beh, sei giovane. Sì, vabbè, diciamo che non sono anagraficamente idoneo, diciamo, al target di questa trasmissione, perché, diciamo, i 70 li ho vissuti solo musicalmente dopo, gli 80 anche fisicamente, ma di striscio non me li ricordo affatto, quindi un po' mi sono detto che cacchio ci sto a fare qua stasera, però hai saputo trovarmi un'utilità, diciamo così. Certo, soprattutto perché presentaci il vero ospite. Il vero ospite, la vera guest star di stasera, e niente po' di meno che il mio collega Alessandro Patroncini, che fino all'anno scorso era vicepresidente della cooperativa sociale di Genere, una cooperativa sociale di cui ne parlerà lui, così parla di qualcosa, e stasera introdurrà forse anche un pochino il tema, diciamo, sicuramente sarà lui il cicerone che condurrà un pochino le danze stasera, da un certo punto di vista, diciamo, no, senza toglierti a te Simone, che tu farete domande, però se uno ne sa qualcosa in merito è lui. No, ma infatti l'abbiamo chiamato apposta. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, grazie. Forse vi state facendo troppe aspettative, comunque cercherò di non deludervi. Per riprendere la... Intanto grazie di avermi chiamato, e mi fa piacere essere qua. E comunque, se Francesco ha vissuto di striscio gli anni 80, io ho vissuto di striscio per fortuna gli anni 70, non sono così vecchio, però ho invece molta memoria degli anni 80, ecco, a differenza di Francesco, per ovvie ragioni anagrafiche. Certo. Allora ragazzi, voi sapete in generale, chi ci ascolta su Runtime Radio e questa prima volta su Twitch, che Quando Eravamo Futuro è il programma che descrive, diciamo, racconta gli anni 70 e 80 come fenomeni di costume, come racconto di una società che è comunque sostanzialmente diversa. Abbiamo fatto puntate serie, ma abbiamo fatto prevalentemente puntate anche divertenti, abbiamo parlato di cose nerd, di fumetti, di cose a volte un po' più impegnative, ma questa volta invece ci tenevo in maniera particolare, perché è una cosa che comunque ha fatto parte anche della mia vita e di esperienze che io ho fatto. Volevo parlare appunto delle disabilità in un mondo in cui la sensibilità, la percezione, ma soprattutto i supporti, gli ausili erano sicuramente diversi rispetto a quello che abbiamo oggi. Quindi cercheremo un attimo di raccontare com'era e che tipo di evoluzione c'è stata nei confronti di questo tipo di questioni. Io partirei subito, in maniera molto semplice, da quello che è il nostro rapporto esperienziale, cioè nel senso da quello che noi abbiamo incontrato, quindi in questo caso io, Davide e Carlo nello specifico, nella nostra vita, come l'abbiamo vissuta e come la vedevamo un po' questo tipo di cosa, e poi cerchiamo poi di coinvolgere ovviamente anche Francesco e Alessandro. Perché se parto io, diciamo che la prima cosa che posso dire in merito a questo è che noi, e questo l'abbiamo già fatto come tipo di paragone, non eravamo abituati a vedere cose tra virgolette diverse, no? Così come la prima volta che magari abbiamo visto una persona di colore da bambini negli anni 70, che ci ha fatto un effetto perché per noi non era normale. La stessa cosa succedeva quando magari ti trovavi di fronte a delle situazioni particolari che non le riconoscevi perché non ti erano mai state spiegate, non ti erano mai state raccontate, nessuno ti aveva magari detto che ci potevano essere anche quelle... non ti aveva preparato a... Esatto, e quindi io quello che ricordo è innanzitutto pochissimi approcci con le disabilità, soprattutto quelle mentali in particolare, ma in generale anche quelle fisiche, diciamo veramente al posteriori, con la memoria di oggi, avevi la sensazione che certe cose venissero nascoste piuttosto che condivise oppure sostenute, supportate nella vita della quotidianità, insomma. Non vorrei usare la parola normalità, perché come al solito qui poi si fa sempre un gioco di parole sbagliate. E soprattutto quello che mi ricordo è che, e questa è una cosa che mi è rimasta impressa, l'ho già raccontata più di una volta, una parola mi è rimasta impressa, perché certi determinati problemi, certe determinate situazioni venivano catalogate tutte con una parola che era sia una parola descrittiva che una parola di insulto, fondamentalmente, che era mongoloide. Erano tutti mongoloidi. Non so se vi è mai capitata questa cosa, a me mi è capitato, perché mi ricordo se il mongoloide, quello è mongoloide, e c'era questa parola che poi dopo diventava talmente di uso comune che alla fine ti rendevi conto che è proprio la sensibilità verso il problema che cambiava, no? Se spastico, se mongoloide e via dicendo. Esatto. Tutte queste parole così buttate ad gazzum su quelle pochissime volte che trovavi una disabilità dentro la classe. Io ad esempio mi ricordo c'era un ragazzo che oggi chiameremo ragazzo down, che allora non sapevamo neanche come si chiamava, che aveva veramente seri problemi, e che mi ricordo che a mensa lo mettevano sempre vicino a me, e a questo gli cascavano le cose per terra e lui chiedeva di raccogliere, se le mangiava, faceva delle cose, e nessuno se lo infischiava, diciamo, nessuno lo supportava, nessuno lo aiutava a mangiare o a comunque a dirgli: guarda che le cose che raccogli per terra magari non le devi mangiare, no? Cioè non c'era, non, era veramente un mondo completamente lontano. E poi dopo vengo magari a un'esperienza più personale, però volevo fare prima un attimo sentire Carlo e Davide, insomma, in merito a questo approccio, diciamo. Sì, se vuoi ti dico io qualcosa. Vai. Allora, io, come hai già più o meno annunciato tu, io non sono a conoscenza esattamente di come funzionava in quegli anni, però evidentemente mi pare di capire che tutti abbiamo avuto un'esperienza molto simile, soprattutto a scuola, cioè che lo Stato o chi per esso ha cominciato a cercare di integrare le persone che potevano avere delle disabilità, che integrarle in una classe normale di persone. Anch'io qua uso sempre le parole che non sono parole corrette, come sempre, perché ci confondiamo spesso, parlando di normalità, no? Comunque, vabbè, nella mia classe, e non ricordo con precisione se era un programma che coinvolgeva tutte le classi o solo una delle prime, una delle seconde, una delle terze. Per quanto mi ricordo, era l'unica persona con una disabilità presente in quella scuola, parlo di scuole medie. E io quell'anno che iniziai quella scuola mi trovai in classe questa persona disabile, che era un, adesso io non so quale sia esattamente la sua anomalia, comunque era, credo, non aveva il controllo della mobilità e non poteva parlare, non poteva ascoltare, non poteva fare niente, era seduto su una sedia a rotelle e non aveva il controllo dei propri arti, sostanzialmente. Adesso non so definire esattamente quale sia la patologia. Fatto sta che ricordo, sì, non lo sapevamo fondamentalmente, no, perché non lo sapevamo proprio, cioè non no, esatto, ma non lo so neanche adesso, magari è tetraplegico, non so qual è il nome, c'avrà un suo nome che non lo so, no? Però e a quell'epoca era semplicemente uno spastico, se vogliamo proprio trovare, esatto, quei termini che ci avevi dato tu. E quando me lo sono trovato in classe, io onestamente ero un ragazzino, mi sono trovato molto a disagio, ero anche spaventato, a dire la verità, perché non, cioè, ma cosa ci fa? Perché qua? Perché ce l'abbiamo in classe noi e non ce l'ha qualcun altro? Ma perché non può essere da un'altra parte, ce lo dobbiamo prendere noi? E questo è l'inizio, l'impatto iniziale, che è quello che poi è quello che, come si dire, come si vuol dire, come hai voluto dire, è non sapevamo, non conoscevamo, e quindi ci faceva, a mio avviso ci faceva paura, ecco, una cosa del genere, averlo lì. Per poi dopo, in realtà, non voglio raccontare tutta la storia, però posso dire che col tempo è diventato un compagno di classe, una persona che abbiamo cominciato è diventato uno di noi, anche se aveva i suoi problemi, e addirittura siamo arrivati a fare collette per comprare strumenti per lavorare, tipo macchine da scrivere, eccetera, perché comunque la scuola non era in grado di poterlo sostenere, e tantomeno i genitori, ed è diventato uno di noi. Alla fine era normale per noi avere una persona così, e questo secondo me poi è servito a tutti noi di quella classe, credo, perché appunto era l'unico nella scuola. ad avere un approccio successivo nelle scuole superiori e nella vita completamente diverso. E secondo me è stata comunque un'esperienza davvero importante, nonostante all'inizio eravamo veramente tutti spaventati, poi ovviamente i primi mesi era anche, lo prendevamo in giro, si rideva di lui, eccetera. Era comunque un'esperienza, all'inizio era appunto il fatto di non conoscere è quello che ci ha dato il timore. Poi c'era anche il timore proprio dello studio vero e proprio, cioè con una persona così in classe avremo difficoltà nello studiare, nell'andare avanti nelle nostre cose, anche se, sai, il problema di studiare in quel periodo, in quell'età, era il meno proprio, cioè nessuno gliene fregava niente di studiare a scuola, anzi. però sembrava una difficoltà in più, cioè perché avere noi questa difficoltà e non qualcun altro in un'altra classe? Non poteva andare in un'altra classe, ecco. E quindi niente, questa è stata una delle, devo dire, non ho avuto moltissime esperienze io con disabili di questo genere, però questo è quello che mi ricordo, e quando rifletto a posteriori dico che invece è stato veramente utile per la mia crescita e per valorizzare queste cose nel futuro e avere un approccio diverso con i disabili. Ecco, secondo me è stato importante, era una cosa importante che è stata fatta a suo tempo, che aveva il suo valore, che magari nessuno comprendeva, soprattutto i genitori. Adesso non ho idea di cosa pensavano i genitori, ma credo che non fossero molto d'accordo. Il discorso dei genitori, poi ci arriviamo, perché poi entriamo pure con Alessandro. Allora, prima di passare, esatto, a Carlo, intanto salutiamo Angelo Pioli e MWW Blog, che sono i nostri primi due visitatori su Twitch. Insomma, mi fa piacere comunque anche questo tipo di approccio, ma sarà difficile per me gestire entrambe le chat, però va bene, vai Carlo. Poi dopo leggo, c'è una cosa che ha scritto Michela sulla chat di Rete Runtime. Niente, è interessante sapere che sia te Simone che Davide avete già negli anni 70, a questo punto, comunque, esatto, nei primissimi anni 80, avete già avuto un approccio con, soprattutto nella scuola, con delle persone con disabilità, perché in realtà per quanto riguarda la mia esperienza, comunque quella che ho vissuto io negli anni 70, negli anni 80, la disabilità era completamente nascosta e invisibile. Io all'epoca abitavo in un paese della provincia di Milano che era settimo milanese, e sia alle elementari che alle medie non ho mai avuto nessun tipo di contatto con persone disabili, non c'erano in classe, non c'erano non solo nella mia classe, non c'erano in tutta la scuola. E a quell'epoca le persone disabili, e questo lo sono venuto a sapere, poi l'ho imparato sulla mia pelle dopo, per un motivo che poi vi dirò, erano praticamente segregate rispetto a quella che era la realtà quotidiana, cioè c'era una netta separazione, e l'handicap era vissuto come una colpa, come un qualcosa da nascondere, come qualcosa che non si doveva far vedere, sì, e sì. Quindi era tutto nascosto, vivevano in casa, non uscivano, non frequentavano posti che frequentavano le altre persone, non frequentavano le scuole, e anche in vacanza addirittura c'erano dei luoghi appositi, delle spiagge separate, delle cose veramente molto molto, una separazione molto netta. Questo portava ovviamente a vivere la disabilità in maniera completamente diversa a quello che è successo dopo, perché poi io negli anni, vabbè, è successo che poi io non ho fatto il militare, a un certo punto ho deciso di fare il servizio civile quando studiavo ancora all'università, e facendo servizio civile mi mandarono in un posto, ovviamente una cooperativa sociale, e lì fu veramente il mio effettivo primo incontro. Stiamo parlando dei primi anni 90, quindi era il periodo cosiddetto, secondo me, di transizione, in cui si iniziava un pochino a cambiare questa visione che c'era tra la disabilità, i disabili e diciamo la vita normale, se vogliamo così dirla, o comunque non mettere delle barriere. Canonica, più che normale. Sì, canonica, non mettere delle barriere, ecco, tra questa... E lì ho conosciuto in questa cooperativa sociale una ragazza che aveva una disabilità lei leggera, però era lì anche a lavorare all'interno della cooperativa, come molti altri disabili, e era una paresi spastica agli arti inferiori, che è diventata poi mia moglie. Quindi siamo sposati ormai dal 1998, quindi stiamo parlando, ho perso il conto degli anni, ragazzi. Sono vecchio. Perché sei vecchio, mica me è colpa tua. Esatto, esatto, perché sono vecchio. E quindi con lei poi ho conosciuto molto bene tutto questo mondo e ho anche saputo appunto quello che vi raccontavo prima, cioè che il fatto che negli anni 70 e negli anni 80 e anche prima ovviamente era tutto molto separato. Adesso invece poi con i miei due figli, abbiamo avuto due figli, mia figlia ormai si sta laureando all'università, quindi c'ha ormai 22 anni e 23 quasi, e mio figlio ne ha 11 e va in prima media, e da lì si vive la quotidianità attuale, dove invece la presenza delle persone con disabilità ormai è presente nella scuola in maniera molto presente, ci sono introdotti, sia mia figlia che mio figlio hanno sempre avuto, come tutte ormai le classi, credo, almeno presumo che ci sia una in tutte le classi d'Italia una presenza, anche se ovviamente c'è la difficoltà poi del fatto della gestione con i maestri barra professori che devono fare come si chiama? Scusatemi, ragazzi, stasera sono stanco perché sono sveglio dalle 5 di stamattina, ho fatto 7.000 corsi, sto già cotto. Cioè, gli insegnanti di sostegno. Sì, gli insegnanti, esatto, di sostegno, bravissimo, non mi veniva più la parola perché veramente sono un po' cotto oggi. Comunque questo per fare la storia in breve. Volevo solo aggiungere una cosa rispetto a quello che dicevate prima, quelle due parole che erano, adesso le citiamo, ma erano mongoloide e spastico, ai miei tempi, quando io ero piccolo, erano due insulti. Esatto, cioè io non li vivevo, esatto, neanche come una classificazione, era semplicemente due insulti, esatto, che davi, esatto, anche a... Che si facevano tra ragazzi, anche per dire, quando uno non sapeva fare una cosa gli dicevi mongoloide, perché lo sbagliavi, erano insulti, si dice anche oggi comunque, ma che sei un mongoloide, adesso lo sento molto meno comunque, sì, questo è vero, molto molto molto meno, è quasi caduto in disuso, forse ancora un retaggio di qualcuno della nostra età, ma comunque almeno dei ragazzi difficilmente. Guarda, però proprio sul primo punto che tu hai tirato, chiamo in ballo ovviamente Alessandro e poi ovviamente anche Francesco, cioè sulla la prima percezione, tu ti sei sorpreso del fatto che noi comunque abbiamo avuto almeno un contatto, sì, due contatti, sì, no? Sì. Ma in realtà noi abbiamo avuto questi contatti perché io perlomeno vivevo a Roma, una grandissima città, ero dentro una scuola dove c'erano un numero di studenti pari a un paese dai parti tue, insomma, fondamentalmente, cioè c'erano comunque veramente 5.000, se non di più, 5.000, 10.000 studenti, delle scuole enormi, no? E all'interno di quel contesto il fatto che ci fossero 3, 4, 5 persone con delle disabilità era quasi fisiologico, per una questione proprio dei numeri statistici, però tu in proporzione, ora Alessandro, io non so negli anni 70 su 10.000 abitanti quante persone potenziali possono avere delle disabilità, no? Però chiaramente, cioè nel senso, tu le incontravi per una questione di grandi numeri, ma in realtà non le avresti mai incontrate, perché uno dei problemi fino agli anni 70 e 80 era proprio il fatto che secondo me li tenevano chiusi dentro casa poi tante persone, no? Giusto, Alessandro? Sì, nel senso che avete secondo me detto cose molto molto molto importanti, nel senso che per esempio io ho fatto le scuole dell'obbligo in un paese della provincia di Reggio Emilia di 25.000 abitanti, Scandiano, e nel mio percorso di scuola dell'obbligo non ho incontrato in classe non nemmeno una persona disabile, anzi poi se ci aggiungo pure le scuole superiori a Reggio Emilia nemmeno, quindi in tutto il mio percorso scolastico io avevo visto, c'era un ragazzo, uso la parola apposta, handicappato, come veniva detto, c'era un ragazzo handicappato o con handicap, se si voleva essere più delicati, nella scuola, all'elementare mi sembra, alle medie forse due, alle scuole superiori ho fatto un liceo del centro di Reggio e non c'erano persone con disabilità. Questo è significativo, perché poi c'è anche un tema rispetto alla destinazione scolastica, ma questo magari ci porta un attimo lontano rispetto a questo discorso. Quello che volevo dire era che voi avete, cioè allora, io ad esempio, che da una ventina d'anni mi sono occupato anche un po', come dire, in modo fortuito di disabilità, perché il mio incontro con la disabilità è venuto come volontario di un progetto in maniera assolutamente non premeditata, diciamo così, ed è avvenuto all'inizio degli anni 2000, quando perlomeno in alcune realtà italiane sono nati alcuni servizi che hanno iniziato a ragionare sulla disabilità in un'ottica di relazione e socialità. Perché prima parlavate di mongoloide, eccetera, e, termine che ho sentito anche io durante l'infanzia. Io ho fatto le scuole elementari iniziato nella prima metà degli anni 80 e finite intorno al 87-88, quindi l'ho sentito anche io. Però ecco, volevo introdurre, senza essere pesante, un'altra differenza che secondo me è molto importante, che è quella fra handicap e disabilità, no? Perché proprio è un concetto molto importante questo, nel senso che la disabilità ha a che fare con una, cioè l'handicap ha a che fare con un aspetto fisico, perché non si può parlare di handicap, ovviamente. Certo. Ora, mongoloide è oggettivamente un'espressione che non ha fondamento, non ha valore, non ha senso, ma handicap sì, perché l'handicap ha a che fare con una, come dire, una, usate la parola, menomazione fisica in qualche modo, una, mentre la disabilità ha a che fare più che altro con un l'aspetto sociale, no? Di questo, dell'handicap, perché è assolutamente evidente che, voglio dire, Francesco può ovviamente confermarlo, che quando ti trovi di fronte anche a persone che hanno solo una disabilità fisica, se questa disabilità è spesso una disabilità che si porta dietro, che uno si porta dietro dalla nascita, ti ha portato inevitabilmente ad avere spesso meno relazioni, meno esperienze, meno contatti, meno, e questo era molto vero in passato. Ed è evidente che se io vivo con poche esperienze, meno contatti, eccetera, arrivo anche all'età adulta con maggiori difficoltà, che magari non sono cognitive, ma che magari sono, poi lo psicologo non sono io in questa sede, però con difficoltà che magari di sicuro sono di tipo relazionale. E allora io, per quella che è la mia esperienza, io credo che l'aspetto proprio della costruzione di relazioni sociali sia un aspetto che può fare veramente la differenza nell'evoluzione di una persona con disabilità, ed era il tassello mancante secondo me negli anni 70-80 e mi sento di dire anche in gran parte degli anni 90. Sì. Francesco? Finisci. Dico solo una cosa, che non a caso, prima parlavate degli anni 90, adesso io non amo citare le leggi, perché secondo me la legge di per sé non produce un cambiamento dello status quo, però la dico, mi contraddico immediatamente, e ricordo a tutti che la legge 104, che è la legge, diciamo, fondamentale, no? Rispetto all'aspetto della disabilità, è del 92. Questo credo che sia significativo. Esatto. Francesco, non saprei cosa aggiungere, imboccami tu, vai. No, vabbè, se hai qualcosa da aggiungere, se no vado allo step successivo. No, io faccio una domanda, vediamo se qualcuno ha una risposta, ma la casistica che è capitata a me, che parliamo quindi di anni, primi anni, cioè fine anni 70, anni 80, il fatto che io avessi in classe una di questi di queste persone è perché era una scelta della scuola casuale o c'era un programma che prevedeva l'inserimento di queste persone? Ti dico, tu bene o male le elementari, scusami, le hai fatte quindi a inizio anni 70, sì, vai. Sì, 65, 75, dai, 76. 75, 75. Tieni presente che già più o meno nel 71 venne emanata quella, la legge sulla, sulla disabilità civile, sulla, sull'invalidità civile, scusate, la 118 del 71, che tra l'altro integrava anche la, la legge che un po' eliminava le cosiddette classi differenziate, un pochino ha cercato di... senza troppo convinzione di mettere dentro persone con disabilità all'interno della scuola, perché prima al massimo c'erano o le classi o non andavano a scuola oppure facevano proprio le classi proprio separate, classi differenziali. Differenziali, sì, sì. Già al 71 c'è stata questa legge, però come diceva prima Alessandro, non necessariamente una legge poi tre secondi dopo ci si omologa tutti, non è frutto sempre di, un, di un'esigenza culturale, civile, per cui è stata emanata quella legge, però per fare in modo che quei cambiamenti si sostanzino anche dal punto di vista culturale più generale ce ne vuole di tempo, oppure o ci vuole una legge più decisiva come è stata poi la 104 del 92, ma già la 171 ha buttato i primi semini almeno a livello scolastico. Poi sicuramente cioè, questo già, ma dico già dal Regno d'Italia c'erano, diciamo, dal punto di vista statale c'era niente, però comunque c'erano delle iniziative a livello locale o private, però di solito si arrivava più, per quanto riguarda la disabilità mentale cognitiva, più al contenimento, diciamo, quindi ai manicomi, queste cose qua che poi bravo, proprio a questo fatto. Io ti posso dire, per quella che è stata l'esperienza di mia moglie ha fatto tutte le scuole insieme a tradizionali, quindi elementari, asili, elementari, medie, eccetera eccetera, e da quello che mi raccontate, da quello che ho capito, insomma, dai suoi racconti eccetera, e questo può rispondere anche a Davide, in quegli anni, pur essendoci la legge che permetteva appunto di frequentare tranquillamente le scuole pubbliche e andare tranquillamente, la scelta era lasciata nella maggior parte dei casi a una scelta dei genitori, cioè i genitori o comunque chi i tutori o chi aveva la responsabilità della persona disabile in quel periodo sceglieva cosa fare. Se sceglieva di andare a scuola, andava a scuola; se invece, nella maggior parte dei casi però, lo spirito di quell'epoca era di nascondere, perché la disabilità veniva veramente vista come un qualcosa di brutto, da colpa, eccetera, e poi si aveva paura del giudizio degli altri genitori, insomma c'era tutta una serie di fattori. Mia moglie è stata fortunata perché la sua famiglia era abbastanza, diciamo, progressista, giusto per dire. Mio suocero era un famoso sindacalista di Brescia, dell'Iveco di Brescia, lo chiamavano Paietta, giusto per citare, giusto per dirmi, insomma, com'era. E quindi era uno molto attivo, e mia suocera eccetera, quindi i suoi genitori erano persone che l'hanno praticamente integrata completa, cioè lei è cresciuta quasi non sapendo neanche di essere disabile, cioè il suo problema era che aveva il naso grosso, non che zoppicava, quindi giusto per dirvi, certo, com'era. Però lei si è resa conto di essere un'eccezione, soprattutto quando poi frequentava quegli ambienti dove invece si trovavano persone con magari anche disabilità mentali, disabilità fisiche più gravi, quindi handicap, oppure che giustamente, come ha detto Alessandro, la parola handicap non è sbagliata per indicare soprattutto handicap fisici. Quindi questo era per dirti, Davide, probabilmente i genitori di quel ragazzo che hai incontrato tu avevano deciso che lui doveva andare alla scuola, e quindi la scuola pubblica, secondo la legge, non poteva rifiutarsi di avere il disabile in classe, e quindi siete stati, tra virgolette, fortunati ad averlo. Nell'altra maggior parte dei casi, io come Alessandro, neanche le superiori, che sono andata a Milano pure in un liceo grossissimo con un sacco di gente, lì niente, cioè proprio zero. Non ho mai avuto un contatto con una persona con disabilità nel mio intero percorso scolastico, da partire dall'asilo fino ad arrivare alla quinta liceo. Quindi, beh, io infatti qua vorrei arrivare un po' anche a questo step, e faccio la domanda ad Alessandro e Francesco, perché questa cosa ha sodato, ma io l'ho vissuto anche, perché Mia madre era comunque di provincia, di un piccolo paese nelle Marche. In generale ho vissuto certe realtà. Poi dopo vengo a leggere anche voi della chat di Dirette Runtime, ragazzi, lo so che state scrivendo, l'ho visto. Se poi vuoi me ne occupo io, dai. Grazie. Però ecco, questo aspetto del nascondere piuttosto del supportare alla vita della quotidianità è un po' un'estrazione culturale del i bambini poveri, disagiati, buttiamoli nei manicomi e non ci pensiamo più? Cioè, nel senso, il principio è sempre quello? Ce lo siamo portato dietro? Secondo me sì, poi non so gli altri. No, volevo sentire Alessandro e Francesco, che magari ci hanno... Non lo so, non esiste ovviamente una risposta sì o no, credo. Comunque, cioè, il retaggio sì, perché comunque quando c'erano i manicomi e funzionavano da manicomi, come ci immaginavo, quindi catene, elettroshock, contenzioni, le urla. Perché si dice anche che molte persone che erano là dentro avevano questi tipi di problemi, ma molte altre erano persone problematiche che non sapevano dove infilarli, insomma, nel senso... Sì, a volte sicuramente lì veniva messo, non c'era un'attenta valutazione, non c'erano gli strumenti che abbiamo adesso, anche dal punto di vista scientifico, forse non c'era neanche la voglia politica, sociale, esatto, di andare a differenziare. Quindi magari la persona nata e cresciuta in un contesto culturalmente, socialmente svantaggiato, che non arrivava ad avere degli strumenti sociali, diciamo così, degli strumenti culturali per affrontare alcune situazioni sociali, quindi viveva da emarginato, se c'era l'occasione, da fastidio in qualche modo, e magari, non lo so, pareva brutto metterlo in carcere se faceva qualche marachella, diciamo così, ma con qualche criminale, qualche cosa, veniva semplicemente internato totalmente, tra virgolette, sano, che poi non c'è comunque, c'è questo di portare comunque ad assumere degli altri tipi di disordini, disturbi non configurabili adesso a qualcosa di davvero che ti compromette il livello di qualità della vita, proprio che in qualche modo qualche autonomia magari ce la potevano avere, però comunque dava fastidio, mettiamolo là dentro. Sì, anche per vergogna. Alessandro? Sì, allora io... i drogati, per esempio, scusami. Come? Anche i tossici, per esempio, lì sì. Mettevano comunque. No. L'unica cosa, sì, sì, no, ma infatti io condivido tutto questo. L'unica cosa che però secondo me terrei un po' a sottolineare è che attenzione a, come dire, a estremizzare due polarità, no? Come se, cioè, nel senso che secondo me, negli anni, per quello che ho visto io, cioè, ho visto io in realtà, per quello che ho ricostruito, diciamo, o meglio, per quello che ho visto negli anni 2000, negli ultimi 20 anni, insomma, sulla base di esperienze di persone adulte, 30, 40, 50 anni, no? Che quindi sono stati infanti, adolescenti negli anni di cui stiamo parlando, secondo me la questione non era tanto quella, se non proprio casi estremi, no, dell'internamento piuttosto o della integrazione, ma quella di una grigia quotidianità, nel senso che spesso, in questo senso non so se sia proprio da mettere in correlazione solo con un dato di povertà, come dicevamo prima, ma economica, ma più con un dato di povertà culturale, che spesso si sposa, purtroppo, e non è per fare un discorso classista, lungi da me, alla povertà economica, ma non sempre, nel senso che io potrei portare esempi di persone che economicamente stanno benissimo e che però hanno nascosto i figli e quindi anzi forse è più vero quello, sì. Esatto, è più vero, cioè, che quindi, sì, che è un tema di sì, scusa, era che volevo confermare quello che dicevi, perché ho un'esperienza diretta proprio di questo, di quello che stai dicendo, proprio anche al contrario, cioè di persone ricche che hanno nascosto i figli e persone invece povere che invece gli hanno fatto vivere la quotidianità forse magari la famiglia ricca in un certo tipo di contesto magari ne faceva proprio una questione proprio di decoro personale, no? Familiare, no? Di immagine della famiglia. Aveva anche cioè la possibilità di nascondere, esatto, sì. Perché una famiglia già disagiata, economicamente svantaggiata oppure non così facoltosa, magari faceva più comodo delegare, certo, all'esterno piuttosto che contenere. Sì, ma era anche una questione anche culturale, come giustamente ha detto Alessandro, consapevolezza. E poi che la cultura, cioè nel senso, perché poi bisogna sempre stare attenti, no? Come guardi, come leggi le variabili, no? Perché nel senso, io posso avere studiato perché avevo dei soldi, cioè avevo dei soldi perché comunque me lo potevo permettere, e allora, però non vuol dire che, come dire, no? La causa sia del mio approccio alla disabilità, sia perché mi potevo, cioè perché avevo i soldi per studiare. Ma quindi insomma, bisogna sempre stare attenti un po' a queste correlazioni, secondo me. E una cosa che io vi posso portare da esperienze concrete qui su Reggio, insomma su Reggio Emilia, è che c'è, ahimè, anche in una città che comunque offre molto da questo punto di vista, c'è stata secondo me una settorializzazione degli istituti scolastici, cioè dette in parole povere. Ci sono alcuni istituti professionali che hanno accolto in misura preponderante persone con disabilità, mentre qua finiscono spesso le persone tuttora finiscono e finivano le persone con disabilità provenienti da famiglie che non erano in grado o comunque non avevano la consapevolezza, non erano in grado di tra virgolette definire un futuro per il figlio o la figlia, mentre invece penso ad esempio ad altre famiglie che sono riuscite a inserire i figli, soprattutto all'ex magistrali, no? Quindi c'è un socio psicopedagogico che sicuramente, per quella che è la mia esperienza locale, il massimo contenitore di persone con disabilità alle quali offrire una prospettiva, perché come dire, il rischio poi è quello di creare, no, luoghi, passatemi il bruttissimo termine, un po' ghetto, nei quali tu vai a ficcare, scusate la brutalità, le persone con disabilità e però come dire, alla fine tu non riesci a costruire delle progettualità individuali su queste persone, e questa cosa è una cosa che io ho visto moltissimo, devo dire, anche solo 10-15 anni fa. Ma anche adesso io ti dico, giusto per trovare i dati, l'Istat nel 2017 ha registrato che, come hai detto tu, che circa il 50% delle persone, dei ragazzi con disabilità, si iscrivono a degli istituti professionali, quando il restante delle persone non disabili il 20% circa. Quindi sì, sì. Allora, sono nomi di scuole perché le conoscerebbe solo Francesco, e perché poi non, no, vabbè, ma poi non sarebbe essere querelato, però. Sì, no, ma no, ma poi non, cioè non è, sì, non, no, a parte gli scherzi, non è il caso. Francesco, facciamo un giro in chat, poi io parto da un altro discorso che secondo me ci aiuta un po' a fare il cammino, voglio sentire poi anche gli altri, però parto da mia esperienza personale dopo. Vabbè, l'intervento, diciamo, il primo intervento un pochino più pregnante è quello lì, giustamente, di Michela, che avrà sentito tante volte, però giustamente non in questa condizione, che lei, essendo cresciuta con uno stretto parente con la sindrome di Down, che per sua fortuna ha incontrato un'associazione molto importante sul territorio, quindi a Monterotondo, che ha creduto in un progetto di autonomia in cui è stato uno dei primi protagonisti. Però diceva, giustamente, questa associazione, soprattutto magari pensi in una situazione così provinciale, un'oasi, certo, nel deserto. Si aggiunge Walter Sbano che scrive che io avevo una cugina con con parziale ritardo mentale, purtroppo poi ebbe anche altri problemi di salute e morì per complicazioni cardiache abbastanza giovane, ma la sua vita fu complicata. Poi Gianluca Mattei ci scrive che l'handicap è l'ostacolo, tra virgolette, che può incontrare una persona disabile, non fa parte della persona ma dell'ambiente. Si aggiunge Walter che per me da bambino l'handicap era normalità, mio papà ha avuto la polio da bambino, per cui aveva problemi di deambulazione, è stato un tutore ortopedico. Vabbè, ok. No, Michela, boh, c'è un'altra cosa di Michela. Ah, scusa, no, vai, così finiamo, certo, giusto. A Roma abbiamo avuto un enorme manicomio che, una volta dismesso in seguito alla legge Basaglia, si è trovato a dover gestire queste persone che in realtà non avevano mai avuto accesso alla vita normale. La madre di alcuni miei amici strettissimi lavorava nelle case comuni di queste persone. È stato un po' duro capire che le loro in realtà avevano delle famiglie che non intendevano o volevano occuparsene. Ecco, come dicevamo prima. Esatto. Allora, io ripartirei dalla scuola, Alessandro, e poi però anche sentendo poi Carlo e Davide, perché parto dalla mia esperienza personale che mi ha fatto poi capire negli anni, no? Perché i primi tempi, quando ero sposato con mia moglie, lei a un certo punto ha provato, diciamo, a fare l'insegnante di sostegno, ma più che l'insegnante di sostegno, lei faceva il supporto linguistico a un ragazzo straniero e via dicendo. Allora poi si parlava di questo mondo degli insegnanti di sostegno, quindi quegli insegnanti che vengono messi a fianco a determinate persone che hanno alcune difficoltà per aiutarle a diciamo superarle, quantomeno insomma per quello che gli è possibile, chiaramente. E quando io ho sentito parlare per la prima volta dell'insegnante di sostegno, mi è sembrato di sentire un po' il libro di fantascienza che parla dei marziani, no? Perché per me era una cosa che non esisteva. Io sono nato con il glaucoma congenito, ho vissuto i miei primi anni della mia vita come ipovedente, in totale inconsapevolezza, perché poi mia madre mi ha cercato di insegnare, no, a vivere in una certa determinata maniera. Però quello che mi ricordo io quando sono entrato a scuola, e anche lì con totale inconsapevolezza, quasi, come posso dire, con quell'incoscienza, no, che hanno i bambini quando per loro quel mondo che loro hanno è la loro normalità, e quindi per loro il mondo è quello, cioè non è né più e né meno. Ecco, quello che io mi ricordo della scuola è che non c'era e non c'è mai stato nessun tipo di supporto. Al massimo io mi ricordo questa cosa, che i genitori del ragazzo che aveva delle difficoltà, del ragazzo, della ragazza, quello che era, andavano dagli insegnanti, quindi la maestra se erano elementari, dei professori se erano le scuole medie e via dicendo qual era il problema, e se ci buttavano magari un occhio d'attenzione, diciamo così, no? E questo occhio d'attenzione spesso e volentieri si circoscriveva nel scrivere le cose sulla lavagna, guardare tu che magari sei in difficoltà perché non le vedi le cose sulla lavagna, e ti dice: vabbè, tu non ti preoccupare, no? Cioè, non fai niente se tu non le vedi, non ti preoccupare, non ti sentire in colpa se non le scrivi, no? Nel senso, una cosa del genere. Però poi non rendendosi conto che questa cosa cioè, ti creava a te una barriera, no? Cioè, nel senso, ti impediva di fare quella cosa. E la maggior parte dei ragazzi con delle disabilità, diciamo, hanno fatto il loro percorso fortunatamente o sfortunatamente a seconda del tipo di insegnante che hanno incontrato. Perché ci sono stati degli insegnanti che comunque quel tempo in più ce lo dedicavano, ci stanno quelli che ti giustificavano, dicevano: non ti preoccupare, non verrai punito se non scrivi velocemente o cose del genere, insomma. Mo io faccio degli esempi abbastanza stupidi, no? Ecco, Carlo e Davide, che tipo di esperienze simili avete avuto rispetto a quello che era? Ah, vabbè, Carlo ha detto: io non l'ho mai visti, cioè, nel senso, no, ben, io li ho visti, e devo dire che io ho un bellissimo ricordo delle mie scuole medie, che per fortuna, perché a parte che io vivevo in un contesto molto popolare, in una città molto di periferia di Milano, dove era già parecchio difficile vivere normalmente, non era un paese un po' difficilino il mio, lo dico il nome Cinisello Balsamo, ma non il Cinisello Balsamo di oggi, ma il Cinisello Balsamo degli anni 70. In quegli anni era un bel paesino quello, no? E in più ero in una zona molto cioè molto popoloso, con grossi palazzoni, con palazzi di 15-16 piani, con un sacco di gente, cioè proprio un ambiente un po' difficile, se vogliamo. E questa scuola era una scuola appunto posizionata proprio nel punto, secondo me, di Cinisello, della mia zona di Cinisello, tra i più critici, dove c'era veramente un livello non era un bel posto dove stare. Nonostante tutto, dentro quella scuola io ho trovato fortuna nel trovare una classe con degli insegnanti, e ricordo ancora benissimo la mia insegnante di italiano e la mia insegnante di inglese, che ancora vedo e con le quali ci parlo su Facebook ogni tanto, ci si saluta, dove è rimasto ancora un rapporto, e anche con tutti gli alunni, i miei compagni di classe, per la quale i professori stessi avevano tutta un'iniziativa, cioè erano ancora di quelli che ci credevano, no? Nella scuola, e hanno cercato di fare il loro meglio per farci portare avanti tutti i nostri studi con cose un po' diverse rispetto al solito. E il fatto che ci fosse anche questo ragazzo all'interno della classe, ritengo che sia stata una fortuna per lui che fosse in una classe con questo tipo di professori, perché gli davano sempre il loro spazio, gli dava sempre il suo spazio, insomma lo spazio, quando c'era qualcosa da spiegare, da vedere, si perdeva anche un po' di tempo per cercare di fargli comprendere le cose, avendo poi dei feedback un po' rallentati, un po' complicati. In realtà lui non è che non capisse, aveva solo dei problemi fisici, motori, ritengo, non mentali. Certo che poi quando hai tantissimi problemi fisici si ripercuote un po' anche sul mentale, perché fai fatica ad apprendere, a spiegarti, a parlare, a tutto, e quindi rallenta un po' tutto. Però di fatto non era, cioè se tu appunto a un certo punto lì non potendo comunicare più di tanto, servirebbe una macchina da scrivere elettrica, perché all'epoca era anche un prodotto abbastanza d'avanguardia, ma la scuola non ce l'aveva neanche per fare per la segreteria una macchina da scrivere non c'era neanche quella meccanica, no, probabilmente aveva quella meccanica, ma quella elettrica era come dire il computer, parlare di una roba. E noi alunni e genitori fortunatamente, a richiesta degli insegnanti e non della scuola, hanno detto per il nostro compagno di classe, se, visto che i genitori non se lo possono permettere in nessun modo, se possiamo collaborare assieme per mettere assieme qualche soldo per comprare questa macchina da scrivere, che consentirebbe a lui di poter comunicare, perché poi lui aveva dei problemi motori, ma piano piano i tasti li schiacciava e scriveva e faceva tutto, cioè capiva e ci faceva capire che capiva con i suoi tempi, ma ce la faceva. E questo l'abbiamo fatto, abbiamo aderito a questa cosa, abbiamo dato quello che potevamo, e alla fine lui aveva la sua macchina da scrivere elettrica e veniva in classe. No, questa è veramente anche una di quelle cose, perché poi anche Michela mi ha raccontato, anche loro c'avevano un ragazzo autistico in classe che aveva bisogno di determinate cose, e tutti comunque facevano cerchio rispetto a questa cosa. Però già, cioè, nel senso, queste cose sono successe quando negli anni 70 non era così facile avere questo presupposto di solidarietà, perché noi non le capivamo proprio certe cose. No, io poi tra l'altro mi mettevo, cioè io ero una sorta di mondo di mezzo, no? Tra una persona che non era, uso questo termine per semplificare, normalità, no? Non ero normale, ma allo stesso tempo mi sentivo più normale degli altri, no? E quindi sai, c'era questa confusione poi alla fine anche. Però ecco, questa cosa dell'evoluzione scolastica, Alessandro, quando è che veramente si è iniziato a ragionare su questo tipo di problemi, a creare, voglio dire, quelli che sono degli ausili per le persone con degli handicap, delle disabilità o qualsiasi tipo di problematica potesse essere? Ma guarda, io al di là di, cioè io non troverei tanto una data, perché come spesso succede, no? Perché prima abbiamo parlato del 92, della legge e quant'altro, però come dire, non è che io faccio una legge, come dicevo prima, e allora questo vale non solo nella disabilità ovviamente, e allora cambia la situazione. La legge è spesso un frutto, come dire, è frutto di un contesto ambientale e culturale che è matura e traduce questo in una legge, però poi come dire, è stata una maturazione, io credo, culturale, collettiva della società, in larga parte per fortuna della società, mi sento di dire, nel senso che oggi sicuramente il tema della disabilità non è più gestito come 20, 30, 40 anni fa, quindi più che una data sicuramente, o comunque se dovessi trovare un periodo, direi a partire dalla seconda metà degli anni 90. Sì, no, ma io lo dicevo genericamente, non è che volevo. Sì, confermo, è quello, a partire dal 95 circa in poi, più o meno, l'ho vissuto personalmente. Ciao Leo Vargheon, ennesimo visitatore su Twitch, grazie ragazzi, mi fa piacere che comunque qualcuno, insomma. Scusa Alessandro, prego. No, figurati. E tra l'altro quella, esatto, cioè la seconda metà degli anni 90, fine anni 90, inizio anni 2000, è anche un periodo nel quale iniziano ad emergere una serie di bisogni, o meglio, i bisogni c'erano anche prima, iniziano a essere rilevati e ai quali si inizia a dare risposta ad una serie di bisogni sociali e relazionali rivolti alla disabilità. Perché allora, una persona può essere disabile in tanti modi, come una persona può essere non, cioè fermo restando che buonismo, ma io penso realmente che sia sbagliato ragionare in termini binari sempre e soprattutto nella disabilità, nel senso che non c'è uno zero disabile non disabile, ma c'è un io penso davvero che vi sia un lungo continuum dove ciascuno di noi si colloca in un punto diverso a seconda di ciò che trattiamo. Spesso dico, prendo esempio un ragazzo disabile che conosco, che si butta col paracadute, con il sutore, ma si butta col paracadute, è un ragazzo down. Io se mi buttassi col paracadute probabilmente avrei un infarto nei primi 5 metri e non ho nessuna intenzione di farlo, e è un handicap questo dal suo punto di vista, sì. Ok, e questo per dire che cosa? Che ciascuno di noi, a seconda del, come dire, della dimensione che cogliamo, si pone, no, in un punto di questo continuum. Dopodiché, noi parliamo di persone con disabilità, ma le persone con disabilità, anche chi è in carrozzina, non ha bisogno solo di essere portato in bagno, scusate se sono un po' chiaro, ma anche di relazionarsi. Il bisogno sociale di relazione è insito nell'essere umano, per cui nei momenti in cui si è compreso che la persona disabile non aveva solo un bisogno fisico, un bisogno di accudimento, mettiamola così, ma aveva un bisogno relazionale, credo che si sia fatto un po' la svolta, che non è comune a tutti, ma che mi sento di dire oggi come oggi, quantomeno chi la pensa diversamente un po' si vergogna di dirlo forse, o comunque l'unica la differenza principale sta secondo me in un approccio un po' pietistico, che forse è proprio più di generazioni un pochino più anziane, senza avere giudizi, però vi faccio solo l'esempio: noi in epoca pre-Covid abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia e pezzi d'Europa, e capitava con persone con disabilità, e capitava magari di fermarsi all'autogrill o in aeroporto, in stazioni dove c'era la signora anziana, che magari spinge la persona in carrozzina, laureata perfettamente, più o meno perfettamente integra come tutti noi, più o meno come tutti noi ovviamente, magari arrivava la signora anziana che la carezzava in testa e gli diceva carino, bellino, e questo qua che si alzava e magari la mandava a quel paese. Scenetta secondo me vista e ripetuta più volte, perché sicuramente questo atteggiamento c'è ancora, ma secondo me è più questo, secondo me, in questo momento, cioè in questo momento, quello da scardinare è più l'idea pietistica in quanto tale, no, del poveretto, che secondo me sì. Perché è oramai assodato, no, voglio dire, che il disabile non viene mai, cioè quantomeno almeno nessuno si sogna in questo momento, salvo, voglio dire, legioni di folli sui social, però diciamo che sono magari occupati da altri argomenti, se non altro, e quindi insomma in questo momento secondo me l'aspetto fondamentale è da su quale corre ancora un po' investire, più che altro questo, no? Nel liberarci da un atteggiamento pietistico, nel senso che io domani, se vedo Francesco in giro per Reggio Emilia, nel senso, magari gli chiedo come va, o magari non gli dico niente, però non gli dico Nanino come stai, insomma, Nanino è un'espressione molto reggiana, che io non uso peraltro, e quindi cioè, questo per rendere l'idea che secondo me è più questo aspetto, ecco, da scalfire in questo momento. Sì, anche se devo dire che per quello che ho visto io la società attuale è migliorata moltissimo. È ovvio che ci sono ancora, soprattutto come giustamente hai detto Alessandro, le persone anziane, perché vengono dal morale precedente, dalla socialità, sì, precedente, certo. E quello che anche ho visto comunque in generale, per quanto riguarda l'esperienza che ho avuto anche nelle cooperative sociali, poi con mia moglie, insomma con tutto quello che è stato il mio frequentare, è che l'insegnamento principale, soprattutto verso le nuove generazioni e verso i giovani, è con l'esempio e con alla fine i ragazzi fanno quello che tu fai e si comportano come tu ti comporti, cioè vedono verso l'adulto, verso la persona più grande, l'imitazione. Quindi in generale attualmente le nuove generazioni sono sicuramente, per quanto si possa pensare male delle nuove generazioni, io non penso assolutamente male, anzi le trovo assolutamente molto, molto migliori di come eravamo noi e di come ancora di più. Sì, vabbè, molte cose sono cambiate, sì, sì, verso questi fattori. E poi vabbè, la società sta cambiando, è ovvio che siamo ancora in mezzo al guado, non dico che stiamo, che ormai siamo a posto, che è tutto, anzi no, eppure Leo Vargion ci scrive: però... i ragazzi per certe cose sono davvero delle bestie a volte, la sensibilità verso certe problematiche è qualcosa che non è sempre che non sempre si riesce ad insegnare con semplici lezioni di educazione civica. Allora, questo è un problema che c'è sempre stato, cioè i ragazzi sono ragazzi. L'educazione è difficile in generale, esatto. Poi guarda, io penso che chi scherza, chi gioca, chi ha degli atteggiamenti beceri su determinate cose è perché poi questa educazione non ce l'ha mai avuta, cioè nessuno lo ha aiutato a percepire una sensibilità verso questo tipo di problema, ed era il motivo per cui i ragazzi della mia generazione si scagliavano molto più facilmente verso il debole, il problematico, o comunque quello che veniva considerato più alieno, perché non c'era proprio questa educazione, nessuno ci ha mai spiegato. Oggi i ragazzi secondo me sono un po' più evoluti da questo punto di vista, poi chiaramente sono i casi a seconda delle regioni, dei posti, delle circostanze, chiaramente delle persone anche sì. Nello specifico, insomma. Beh, io confermo personalmente che il fatto di aver avuto questa conoscenza da precoce, chiamiamola così, da quando ero ragazzo, mi ha consentito di confrontarmi e di avere un rapporto di diverso nel passato, l'ho già detto all'inizio, cioè successivamente il fatto di vedere una persona con quel tipo di disabilità, avevo già molte informazioni perché poi comunque noi ci siamo presi cura di questo ragazzo, non è che c'era l'insegnante che se ne occupava lei, siccome aveva dei problemi anche di salivazione eccetera, bisognava ogni tanto andare lì a fare dei lavori, lo faceva chi passava. No, ragazzi, comunque si può parlare tranquillamente, cioè nel senso non è che ci dobbiamo fare problemi se dobbiamo dire cosa piuttosto che un'altra. Non volevo dire ma lo dico anche per Alessandro, perché giustamente prima si preoccupava del fatto di magari di usare un certo tipo di linguaggio, però ragazzi, cioè anche dover portare un ragazzo al bagno e doverlo accudire, è un fatto, cioè non è che è una cosa che sì. Però noi eravamo arrivati più comuni di quanto pensate, aiutarlo a fare tutte queste piccole cose, che sia soffiarsi il naso, che sia pulirsi dalla saliva, spostarlo, andare in bagno eccetera. Sì, se ne occupava magari principalmente l'insegnante o chi per il bidello magari per andare in bagno, però se in quel momento non c'ero, passavi lì tu, prendevi lo straccio che aveva e lo pulivi e basta, ma è diventata una cosa normale nel tempo. Quindi questo successivamente, se ti capita nella vita, non lo vedi più come una cosa, oddio che cos'è, aiuto, no? Semplicemente sai già come comportarti, sai già quel tipo di problemi poteva avere e sai che tipo di vita può aver fatto, e quindi l'approccio è completamente diverso e diventi facilmente, molto facilmente, anzi direi quasi nella totalità, tutti i miei compagni di classe che hanno vissuto questo momento in realtà si sono trasformati in difensori di questo tipo di categoria al posto che di offensori, cioè di quelli che, e se c'erano i compagni della classe di fianco che lo prendevano in giro, noi stessi ci mettevamo in primo piano a dire oh, e quindi lo proteggevamo in qualche modo anche, e questa abitudine ce la siamo tenuti per sempre, e poi la portiamo dietro con il bagaglio, diciamo che quella culturale. Che in quegli anni per te è stata un'eccezione incredibile, adesso per fortuna sta diventando una cosa abbastanza comune, almeno per quello che posso riportare del percorso scolastico che hanno fatto i miei figli, perché sia mia figlia che mio figlio hanno avuto più o meno le stesse esperienze che hai avuto tu e che non ho avuto io, e come tantissimi miei coetanei nati negli anni 70, insomma. Per esempio vi porto un altro esempio, il più giovane l'ha già vissute anche lui o no queste cose. Ti dico, in realtà no, perché sono più giovane, però nella mia esperienza anche io da un certo punto di vista è molto simile a quella di Alessandro, nel senso che ricordo solo all'elementare che c'era un ragazzo con sindrome di Down che tra l'altro però non in classe mia, non era neanche, cioè faceva addirittura comunque un, era tipo qualche anno in più di me, però comunque era fuori dalla classe tendenzialmente, mi ricordi vaghi delle elementari, che quello che mi possa ricordare, mi ricordo solo che quelli più grandi lo aizzavano tipo contro di me a volte, perché io ero il fessacchiotto di turno. Grazie. Però tutto questo non mi ha fatto crescere con l'odio verso la trisomia 21. Tutto sommato. Invece medie non ne ricordo affatto niente, cioè neanche in altre classi, superiori idem, eppure ero in un professionale, ho fatto l'alberghiero, quindi ripeto, a livello di grandi numeri dovevano esserci, però niente. Ricordo solo all'università vagamente un po' di persone in carrozzina e stop, cioè comunque sono stato in quella... E forse uno degli ultimi scampoli in cui non era così, diciamo, diffusa che ci fosse questa vera e propria integrazione. Invece poi posso riportare il mio, diciamo, la mia esperienza, soprattutto quando ho fatto prima dell'abilitazione al psicologismo. Io ho fatto per diverso tempo l'educatore, ho fatto l'educatore di integrazione scolastica, quindi andavo negli istituti proprio scolastici all'interno della classe Reggio Emilia a supportare, a dare supporto a persone con, nel mio caso solo una persona con disabilità fisica era in carrozzina, e due persone, una con più che altro sì, aveva qualche limitazione fisica, ma era più un disturbo positivo, diciamo provocatorio, un altro sì, era autismo ma molto marginale, diciamo così, però comunque mi sono confrontato con altre situazioni e posso dire che comunque il lavoro che viene fatto soprattutto a livello scolastico, soprattutto in alcune condizioni, a partire dagli insegnanti di sostegno, quando sono adeguatamente formati, ora per legge devono generalmente essere formati, tranne quando spesso mancano, quindi per le messe a disposizione ci mettono pure gente che hanno il diploma, ma vabbè, il lavoro è molto diverso e si cerca, cioè, di usare la classe, il contesto classico, il contesto scuola come supporto, ma non come supporto nel senso che di per sé deve essere predisposto all'accoglienza, perché si è passato, diciamo, soprattutto dalla 104, diciamo, c'è stato dagli anni 80, dagli inizi degli anni 90, si parlava più di integrazione, come giusto che sia. Integrazione vuol dire io ti do tutti gli strumenti necessari perché puoi più o meno essere al nostro livello, puoi integrarti meno. Ora l'ottica si è spostato più su un concetto che può essere simile all'integrazione, ma è molto più ampio, quello dell'inclusione, nel senso che riconosciamo le tue differenze, le tue caratteristiche, predisponiamo già l'ambiente per cui con quello che hai riesci a fare quello che puoi, il meglio che puoi, e valorizziamo in qualche modo la tua differenza, diciamo, cerchiamo di portarti a livello, però non è più un ti facciamo salire il nostro standard, diciamo, noi in qualche modo scendiamo a te per poi sollevarci tutti quanti insieme, e spesso, diciamo, gli interventi migliori, cioè, sono quelli come hanno fatto ingenuamente, direi, all'epoca di Davide. Quello di Davide è stato un vero e proprio esperimento con anche condizioni sperimentale di controllo. La condizione sperimentale era la sua classe, quella di controllo, quelle le altre classi che non avevano non hanno acquisito questa sensibilità, quindi è l'esperienza che ha riportato lui, cercavano di difendere, di supportare, cioè è diventato normale, è diventata una cosa abituale anche asciugare l'eccessiva bava, per esempio, portarla in bagno, altro, mentre altre classi che non avevano vissuto sta cosa vedevano ma chiesto mongoloide, ma che schifo, certo. Comunque ragazzi, prima di prendere, che poi voglio fare degli esempi e voglio ritornare da Alessandro, vabbè, Leo giustamente ci dice che, cioè praticamente dice che Davide è il nostro Bud Spencer dei noantri, perché poi dopo alla fine, ma perché infatti lui è grosso e buono, quindi cioè ce l'ha un po' del Bud Spencer. Invece MWW Blog ci dice che purtroppo alcuni comportamenti non sono solo verso i disabili, ma basta essere diversi e nemmeno di tanto, insomma, per suscitare alcune attenzioni di alcune persone, però in questi casi se ne esce sempre molto male. Allora, il discorso In effetti è interessante questo aspetto, perché noi oggi stiamo parlando delle disabilità, degli handicap, dei ritardi mentali, delle barriere architettoniche, tutti i limiti che ci sono stati negli anni 70, dove appunto non ti preoccupare se tu non riesci a scrivere, non ti preoccupare se non senti, non ti preoccupare, non ti interrogo se sei muto, cioè nel senso, io faccio un po' banalizzando anche, però insomma, però in realtà poi alla fine questo tipo di discriminazione, anche involontarie, anche culturali, no? Anche linguistiche, no? Come vedi, noi oggi ci andiamo a prendere un libro scritto 70 anni fa e troviamo con tranquillità la parola negro che oggi non troviamo più, no? Quindi poi alla fine la discriminazione era quasi sistematica e quasi involontaria su qualsiasi tipo di discorso, qualsiasi tipo di diversità, no? Cioè potevi essere anche un po' quello un po' svampito, un po' così, una persona che magari con poca capacità di concentrazione, potevi essere uno che pensava a raccogliere i fiori piuttosto che a fare le cose da maschio, e tutto questo rientrava in un meccanismo di discriminazione in certi sensi. Ecco, diciamo che questo tipo di cosa poi alla fine comunque allora è quasi sistemica, cioè era quasi sistematica più che sistemica, cioè era elevata a sistema, cioè la scuola stessa era così, cioè comunque la scuola non ti supportava e quindi eri il poverino che stavi lì perché ci dovevi stare, insomma. Questo è un aspetto veramente importante secondo me, perché e lo leggo anche a quello che diceva Alessandro prima della compassione, cioè quello che ti insegnavano è provare compassione. Qui sia Alessandro che Francesco sicuramente possono raccontarne di tutte le persone che magari si approcciano e si avvicinano a certe situazioni dicendo poverini, no? Poverino il cazzo. È già cioè. Stato, scusa, in parentesi, spesso, loro sono angeli di Dio. Gli angeli di Dio, esatto. Bravi che siete. Infatti, siete meravigliose che state con loro. No, lo so, ma è perché è così. Se non sbaglio, questo è avvenuto, può essere a dove sì, è successo, sì, a Sorrento. Non volevo tirare in ballo la religione, ma questo è proprio tipico della morale cristiana. Quindi eppure, da un certo punto di vista, piccola parentesi storica, dobbiamo un pochino ringraziare il cristianesimo, sì, perché comunque è stato quello lì che, a differenza, non lo so, del paganesimo, della cultura romana, greca, che per cui il disabile, che schifo, ti butto dalla rupe turpea oppure te faccio mangiare dagli sorci. Il cristianesimo con l'avere pietà, queste cose qua, è un pochino ha risollevato, diciamo, ha salvato, ecco, salvato, diciamo, salvato, sì, un pochino l'occhio, cioè ha salvato un pochino per quanto riguarda la disabilità, diciamo così. Poi vabbè, c'è stato Gregorio Magno, il Papa Gregorio Magno, che ha di nuovo detto che schifo, però comunque un pochino salviamo in corner anche quanto più le persone più anticlericali possono essere, diciamo, ha avuto i suoi meriti, dai. Vabbè, comunque io da Alessandro vorrei sapere una cosa legata a un'esperienza, perché noi, per esempio, nostro figlio ad esempio ha fatto una cosa che non doveva fare a scuola e invece di sospenderlo, la scuola, che ha contatti con certi tipi di associazioni, lo ha mandato nel dopo scuola, chiaramente, a fare assistenza a dei ragazzi disabili, in particolare un'associazione che è da queste parti, essendo lui faceva l'alberghiero, quindi faceva il cuoco e andava a cucinare con questi ragazzi down, no? Che comunque alla fine è un approccio esperienziale importante, perché lì per lì c'è la resistenza, la diffidenza del ragazzo che dice no, io che guardando mi hanno mannato, e poi magari dopo due giorni ne esci fuori col sorriso, una cosa del genere. Ecco, una cosa del genere ai tempi miei non sarebbe stata possibile, non solo perché le scuole non erano così organizzate, ma perché i genitori stessi sarebbero che li mandi con i mongoloidi, perché così era, cioè. Alessandro. No, beh, è vero, è vero. Poi allora, io penso che all'incontro con non solo la disabilità, ma la diversità, ci si possa arrivare in maniera veramente diversa. E quindi, come dire, anche questo possa essere un modo per incontrare. Poi, nel senso, ragazzi, dipende anche, secondo me, poi la predisposizione, cioè come il ragazzo, in questo caso la ragazza, no, accetta questa cosa e subisce questa cosa, no? Perché io ricordo, perché bisogna stare anche attenti, secondo me, all'obbligo. Non perché io sono contro l'obbligo, perché a volte serve, ma io ho, nel senso, nel 2006-2007 c'era questo ragazzo che veniva a fare volontariato, veniva a fare delle vacanze di soggiorni con delle persone disabili, perché andava male a scuola e la mamma, per punirlo, lo mandava con i disabili. Allora, è una punizione, bel messaggio. Bel messaggio, infatti. E allora lui era del tutto disfunzionale, no? Disfunzionale nel senso che era in un posto dove non voleva stare, in un posto perché era per una punizione. Certo. Io avevo provato a dire alla mamma, ma insomma, francamente, io non è che, come dire, non abbiamo tanto bisogno di, cioè, diamo una mano, ma diventa quasi una persona in carico questa, no? Perché era, esatto, uno che correva per l'albergo durante la notte con un cappello da giullare, sveglia, quindi insomma, avevo più problemi con lui che con il resto del gruppo. Certo. Quindi, cioè, io credo che questa è una cosa diversa ovviamente da quello che fa la scuola, no? Oggi sicuramente c'è un approccio un pochino diverso su queste cose, però bisogna sempre stare attenti, secondo me, alla, come dire, è un sottile confine. Da una parte è bene forzare, perché non si può neanche dall'altra parte bisogna stare, insomma, alla giusta distanza, non so come dire, no? Anche in questo caso io sono arrivato al mondo della disabilità per caso, perché c'è un amico che gestiva un servizio per il comune di Reggio Emilia, che poi ho coordinato anch'io, e perché mi chiedeva di fare volontariato. Io la prima volta gli ho dato buca e non si fa. Ma ammetto che avevo delle difficoltà. A un certo punto sono andato la volta successiva, perché così la smetteva di rompere, letteralmente. Poi, ok, qual era la mia? Ma devo dire che questa cosa a me poi è servita, perché il fatto che io non sia arrivato al mondo della disabilità come cosa automatica, perché sicuramente prima Francesco diceva una cosa vera, accanto a tante cose vere che dice sempre, ovviamente, ma il mondo cattolico, accanto, dico cattolico perché l'Italia è cristianesimo e cattolico, ma il mondo cattolico accanto a pregiudizi, ma sicuramente ha portato con sé, se volete per misericordia, per quello che vogliamo, comunque un'accettazione maggiore di certi aspetti che altri mondi. Io, non avendo frequentato sicuramente non avendo frequentato la parrocchia, sicuramente anche quello è stato una minore possibilità di incontro, no, magari rispetto a persone con disabilità. Per cui per me, nel momento in cui mi sono approcciato a questo mondo in maniera imprevista, questo mi ha permesso, credo, di comprendere anche maggiori difficoltà delle persone che si avvicinavano a questo mondo, perché anche questo è l'altro tema che secondo me è molto importante: non essere giudicante, non verso chi dice i disabili sono dei minorati, ovviamente, ma non essere giudicante verso chi ha fatica, verso chi ha difficoltà, perché davvero non è automatico in tutti i casi. No, tuttora, è chiaro. Io tuttora non ho nessun problema a dire che ci sono delle situazioni di disabilità rispetto alle quali io sono in difficoltà. Certo. Cioè, io credo che sia, ma non perché si scelgono i disabili, scusate, alla carte, no? Però è oggettivo che ci sono delle situazioni di disabilità che ti mettono più in difficoltà, perché siamo diversi, cioè come io sono più, cioè nel senso, io sono più in difficoltà con persone, magari io individualmente, con persone metodiche, ossessive, ma che non sono necessariamente disabili. Quando rivedo, no, queste caratteristiche di una persona disabile, secondo me è sano dire faccio fatica. Dopodiché lo devo fare per lavoro, lo devo fare per... Guarda, io su questa cosa, come sfondi una porta apertissima, e forse ne ho parlato già con Francesco di una volta, di una cena alla quale io mi sono sforzato di stare, proprio perché inizialmente il mio approccio era di disagio, no? Se tu accetti questa cosa, perché è giusta, cioè non è che devi vedere questa cosa come una forma di ipocrisia, cioè è ipocrita il contrario, il negarlo, no? Quindi accetti questa cosa, è anche il modo più semplice per provare a vedere se c'è la possibilità di superarlo, no, in qualche maniera, no? Assolutamente, anche se in alcuni casi proprio ci sono, almeno questo lo dico per sempre rifacendomi, mia moglie, come avevo detto, è disabile, però ha una disabilità fisica, e c'è una notevole ovviamente differenza, perché poi come giustamente dicevi Alessandro, non bisogna fare, c'è tutta una, non si può fare di tutto un erbo un fascio, c'è proprio una tantissima, siamo tutti diversi e c'è tantissima, esatto, diversità, e mia moglie ha, lei lo ammette, ha una fortissima difficoltà a trattare con la disabilità mentale, lei è molto più a suo agio con la disabilità fisica che con la disabilità mentale, non riesce proprio a trattarla, perché è la più difficile oggettivamente, lei ne ha addirittura paura, e quindi non riesce ad approcciarsi a questo tipo, perché effettivamente anche poi come approccio, come trattamento, si tratta di due casi completamente diversi, ecco, da un punto di vista di come affrontarle, insomma, ecco. Luca S in chat si scrive un bel messaggio, tra l'altro. Allora, in bambini invece, io lo vedo con mia figlia autistica alle primarie, sanno dimostrare una sensibilità e una maturità commoventi, e questo sin dall'asilo. Sì. Perché vengono esposti sin dall'asilo. Esatto, bravo, esatto, sì, proprio per questo. Mia figlia, infatti, che ha 23 anni, credo sia stata tra le prime. Questo vale anche. Vai, Alessandro. Ma questo vale, secondo me, anche rispetto al fenomeno migratorio, io giro spesso sui mezzi pubblici tra Reggio Emilia e Bologna, ed è frequente vedere, e a volte ci penso, ed è frequente vedere, fortunatamente, ragazzi o ragazze più o meno di origine italiana con altri che sono sicuramente italiani, ma che hanno, come dire, caratteri somatici diversi da quella che è la maggioranza ancora, e tutto ciò biondi con gli occhi azzurri alti. esatto. Ma lo sai cosa mi fa pensare questa cosa, Alessandro? Cioè, voglio dire, com'è? No, sai cosa mi fa pensare questa cosa? A una foto che mi mostrò proprio Carlo tempo fa, non avrebbe dovuto, e io non dovrei dirlo, però questo elenco di nomi misti, no? E tu gli hai detto: vabbè, ma che è questo elenco di nomi giapponesi, cinesi, francesi? Era la classe del figlio, no? Allora, io quello che mi fa pensare è che oggi la politica è ancora ancorata a certi meccanismi che, scusate, le prossime generazioni, anzi la generazione che sta crescendo, l'ha già superati questi meccanismi. Perché noi qui stiamo ancora parlando di integrazione, di immigrazione clandestina, di essere patrioti, di integrazione, quando questi meccanismi, cioè, sono stati già completamente bypassati da una classe di studenti che hanno vissuto la normalità in quel contesto. Poi chiaramente anche qui ci sono situazioni e situazioni, non lo nego, però insomma, ecco, che ne pensiamo di questo tutti quanti? Che schifo. No, se vuoi inizio io. Vai. Ti ho detto, era visto che non parlava nessuno. No, vai, hai ragione, scusa. Perché stavo morendo con la tosse, quindi ho dovuto. Che mi hai citato anche per l'elenco, ma anche mia figlia era così. Io vivo in un paese della provincia di Brescia, che è nota, diciamo, non proprio la provincia di Brescia per atteggiamenti, diciamo, aperti o filo, diciamo che al governo non c'è proprio, ecco, un partito di quelli qua, di quelli che prendono tanti voti e hanno un atteggiamento leggermente diverso, okay. Però fanno parte della generazione degli adulti, mentre i ragazzi, questa cosa qui, soprattutto quelli giovani, giovani non la vivono assolutamente, anzi la vivono in tutt'altra maniera, e sono d'accordo con quello che diceva Simone, è un problema di adesso, ma già le nuove generazioni l'hanno risolto, perché sia mia figlia che mio figlio vengono da classi che addirittura mentre mia figlia era 50-50 tra italiani e stranieri, o comunque anche se alcuni nati qua, alcuni arrivati, addirittura mio figlio sono in minoranza, cioè nella classe di mio figlio ci sono meno italiani tra virgolette che non italiani, che poi sono tutti italiani come stavamo dicendo, però giusto per dare diciamo un'idea, che hanno un cognome straniero, origini straniere eccetera, eppure vivono tranquillamente, anzi loro amici e la vivono come è giusto che sia, no? Cioè, normalità, esatto, e quindi esatto. Per loro questo è un non problema, anche per me, sai, io questa cosa la trovo sempre molto confortevole per alcuni dei nostri, diciamo che confortante, per alcune persone della nostra età non è così, infatti poi esiste la famosa scuola privata delle suore, dove lì diciamo che c'è una certa classificazione differente, insomma. Se hai sempre pensato che la scuola privata delle scuole l'unico scopo è farti crescere delle suore, farti crescere con la fobia delle suore, l'unico scopo. Beh, diciamo che se non è l'unico scopo è sicuramente il risultato che ottiene, questo senza meno. Va bene, Alessandro. Ho fatto l'asilo delle suore. Io pure, mi menava, a me la suona. Però mi ricordo, mi menava solo se mettevo i pennarelli nell'ordine sbagliato. Quindi c'era... Ti menava solo se gli tentavi di dare fuoco. Insomma, no, quello, no, io ti ho detto, ci sono riandato 20 anni dopo, quando avevo 20 anni, e lei era lì in carta pecorita ancora, e mi ha pure riconosciuto. È una cosa che mi ha terrorizzato. E ho detto, cioè, voglio andare via da qua. Comunque, vabbè, ragazzi, Alessandro, come chiudiamo una puntata come questa? Come la raccontiamo questa evoluzione, magari al giorno d'oggi? Come ci siamo arrivati poi dopo dall'ignoranza, diciamo, dal negare il problema degli anni 70 e 80 a questa generazione che adesso ha tanti supporti, vedo, insomma, anche ausili, anche tecnologici, che insomma una volta erano proprio neanche un miraggio. Ma io dico che non tutto, cioè, come abbiamo detto, tante cose sono migliorate, poi chiaramente non tutto va bene, di roba, diciamo, banalmente da fare ce n'è tanta. Ce ne sarà sempre. Quello che tu dicevi sugli ausili, ecco, che era una roba che volevo dire, che non ho detto, e questo è un tema, vabbè, prima appunto Carlo parlava, secondo me, di una cosa fondamentale, no? Della distinzione, adesso cioè della distinzione tra la disabilità esclusivamente fisica e la disabilità che è comunque una valenza cognitiva. Questo, secondo me, più che la carrozzina, è questo che fa un po' la differenza, sì. Nelle reazioni, negli atteggiamenti, tante cose rispetto alla disabilità fisica. Ad esempio, c'è tutto un tema di robotica adesso, che cioè adesso da anni, ma adesso in modo particolare mi è capitato, ad esempio, di andare e di conoscere alcune esperienze fuori anche l'Emilia Romagna, quindi mi viene in mente una cooperativa in Alto Adige che ha investito tantissimo, aiutata anche dalla provincia autonoma, ha investito tantissimo nella robotica, nella domotica, anche qua ci sono degli esempi. Questo è un tema importante, ecco, che secondo me può anche essere un minimo comune denominatore nella vita quotidiana tra persone con disabilità oppure no, perché alla fine, voglio dire, la luce che si accende in una maniera facilitata può essere utile anche per me, quindi se io concluderei per poi concludo per me stesso, ovviamente, non con il discorso di tanti puntini di sospensione, perché insomma di cose ce ne sono ancora tante da fare, perché c'è da passare da un discorso dalla diffidenza siamo alla coesistenza, cioè serve anche la convivenza, ecco, no? Usando questa convivenza e la collaborazione, ecco, a volte magari forse anche su questo dei pezzi vanno secondo me ancora percorsi. Le famose suore di Menare. No, vabbè, è apparso un messaggio suore di Menare, non l'avevo visto. Le suore di Menare. Allora, concludo in questo modo. Io proseguo concludendo la mia esperienza, dicendo che dopo le scuole medie io questa persona disabile che ho avuto in classe con me, non l'ho praticamente mai più rivista e di lui non ho mai saputo neanche più io. Ma di recente, proprio di recente, ho saputo, parlando con un vecchio compagno di classe che ho incontrato, fa: ma lo sai coso? Fa, che, no, non coso, coso. E fa: e niente, adesso lavora, è in un posto, fa il suo lavoro, eccetera. Continua ad andare avanti, e, cioè, ha avuto un futuro, mettiamola così, che ritengo non avrebbe potuto avere, secondo me, o non sarebbe successo se i genitori non avessero fatto quella scelta in quel momento, probabilmente sarebbe rimasto chiuso in casa e sarebbe lì, abbandonato da qualche parte, anche perché i genitori non ci sono più attualmente e da quel momento in poi o vai a finire in un manicomio, ma non ci sono più, vai a finire in qualche struttura abbandonato lì, ciao. Sì. Invece lui adesso ha un lavoro e prosegue e sono stato, ho sorriso dentro di me pensando che fortuna abbiamo avuto tutti, lui incluso, di essere passato per la nostra strada. E quindi volevo concludere questo ricordo con un buon epilogo, anche nonostante tutto è stato un bene per tutti. Bello, meno male che chiudiamo con un buon messaggio. E niente, vabbè, tutti gli altri, quindi Carlo e Francesco. Sì, quello che ha detto Davide è importante e credo che espliciti in maniera... io posso portare un altro esempio a conclusione, se vuoi, che è meno positivo, ma è una storia che ha una parte triste, ma può dare aiuto a questo atteggiamento che si ha adesso nell'inserimento nella, diciamo, questa, come dice Alessandro, convivenza cooperazione nella realtà, perché quando ho fatto servizio civile e ho conosciuto mia moglie, come ho detto, ha avuto la fortuna di fare le scuole normalmente, eccetera, anzi si considera, lei non si pensa neanche, quando, cioè, è difficile che lei stessa si consideri disabile quando lo è a volte, e c'era un altro ragazzo in questa cooperativa sociale che aveva la stessa identica tipologia di disabilità, quindi uno spasticismo agli arti inferiori, una paresi spastica agli arti inferiori, però aveva vissuto in una famiglia dove le scelte che avevano fatto erano l'esatto opposto di quelle fatte dalla famiglia dei miei suoceri, quindi non l'avevano fatto andare alle scuole insieme agli altri ragazzi, no? Quindi non aveva fatto scuole, era rimasto in casa, aveva avuto insegnamenti a parte, insomma, e aveva un evidente anche ritardo mentale e comunque sì, disturbi di comportamento. Vabbè, per forza, cioè non evolveva, sì, interagendo con gli altri. Non li avrebbe avuti, cioè non è che facevano parte della sua disabilità, cioè con la quale è nato. Gli sono venuti proprio per questa tipologia di crescita. Di scelta che hanno fatto. Di scelta, esatto, di scelte differenti da parte dei genitori. Quindi adesso è molto utile che lo Stato, che la società, che la scuola, eccetera, non dico che costringe, ma di sicuramente facilita questa tipologia di scelte e di inserimento. Esatto. E ti rispondo, Carlo, al di là della questione, diciamo, morale, umanitaria, fondamentalmente si spinge in questa direzione perché banalmente avere una persona non autonoma, disabile, è un costo, è un grande costo. Sì. Quindi banalmente investire nel cercare di rendere quanto più autonomo possibile, comunque di valorizzare le capacità in qualche modo, di ridurre l'impatto disagevole di queste persone, magari se c'è bisogno di un investimento all'inizio di persone, di manovalanza, banalmente di risorse economiche, ma poi è tutto il piano, poi c'è un ritorno, anzi non dico necessariamente un ritorno economico, però comunque c'è un risparmio, c'è un grandissimo risparmio dal punto di vista economico, finanziario, anche dal punto di vista legale, perché uno dei grandi dilemmi è questa persona, ok, fin quando ci stanno i genitori genitore, qualcuno che se ne occupa di lui, bene o male se la può cavare. Ma una volta che tutta sta gente che è più grande di lui non ci sarà più, che ne facciamo? Questo... cioè, lo chiudiamo in una struttura, comunque un costo metterlo in una struttura, mentre magari anche con un inserimento protetto, a poter fare un lavoretto manuale piccolo, però comunque che si porta a casa quella 600 euro, 700 euro, comunque un minimo di dignità è sempre qualcosa. Questo penso che sia il problema forse più annoso proprio in generale, anche perché qui tutte le associazioni qua sul territorio sono comunque prettamente dedicate a cercare di costruire quanta più indipendenza possibile nei condizioni in cui c'è la possibilità, insomma. Sì. Un altro problema che non se ne è quasi parlato adesso, che spesso, ma vedo anche gente che magari ci ha vissuto, nel senso più giovane, quindi ha avuto un impatto, la disabilità nel suo mondo, come quando è vissuto, ha avuto un impatto diverso rispetto al nostro, quindi più presente, però spesso gente arriva a cascare dal pero e dice: ma anche i disabili in genere, il cappello disabili in generale, vogliono scopà. cioè, qui, anche qui c'è la c'è anche un continuo, sì. Ci stanno quelli là in cui è quasi una disabilità, un elemento cruciale della loro disabilità è il fatto che stanno sempre con le mani da una parte, toccano, saltano dappertutto, cioè non ce la fanno a trattenersi. Dall'altro invece gente che giustamente ha questo bisogno e non può esprimerlo in qualche modo, quindi spesso questa cosa che viene spesso dimenticata, la sessualità per quanto riguarda, certo, disabili, anche qua c'è molto da lavorare. Qui davvero il lavoro culturale, proprio da questa esperienza che ho avuto di gente giovane che quasi pensa che siano della gente pura in qualche modo disabile, cioè arriva a pensare: cavolo, ma pure loro hanno questi bisogni. Qui c'è un lavoro culturale, forse il lavoro culturale più difficile da fare sarà questo, cioè far capire che cacchio, sono disabile ma voglio scopare anch'io. Questa cosa viene raccontata benissimo in un libro di Stefano Benni, che non so se conoscete, che si chiama Elianto, di Stefano Benni. Se non l'avete mai letto, è un racconto che parla proprio di questo, della sessualità e delle persone, del fatto che comunque anche i disabili, e quindi ovviamente anche con handicap pesanti, hanno una sessualità in qualche modo, esatto, e quindi è raccontato come tutti i libri di Benni, che li ho letti tutti, e Elianto a me è piaciuto molto. Sì, tra l'altro c'è anche una serie di video di Saverio Tommasi, che secondo me ha l'unica colpa di lavorare per Fanpage, perché insomma, se no lui è veramente una persona che ammiro tantissimo, che ha fatto proprio tanti video proprio su questa questione della disabilità e la sessualità, quindi alla fine ecco, vedi che è comunque qualcuno che tocca l'argomento, anche se però purtroppo non è neanche questo il programma sul quale parlare di queste cose, e magari ne costruiamo uno appositamente, perché noi comunque continuiamo a voler raccontare gli anni 70 e 80 e cercare di far capire quelle che erano le cose che c'erano belle e quelle che le cose che non c'erano brutte, e perché poi alla fine era un po' così. Ci volevo leggere l'ultimo messaggio sulla chat di Gianluca Mattei, che dice: non dimentichiamo degli ausili per i disabili visivi, dalle prime sintesi vocali per i PC, e poi è arrivato anche lo screen reader, le integrazioni per gli smartphone. Sì, cioè nel senso che quando si parla di ausili, in effetti se tu vai a un'ottica specializzata, diciamo così, per ipovedenti, vedi che loro ti aiutano a raggiungere determinati strumenti che una volta non c'erano. Una volta c'era l'ingranditore, no? Nel senso, però poi alla fine oggi invece ci sono tutta una serie di strumenti anche per le persone magari che hanno difficoltà nel parlare, le persone che non sentono, insomma, diciamo che la tecnologia anche ha aiutato tantissimo, perché secondo me poi a più sgretoli quella barriera primaria, che è quella proprio della comunicazione, e più fai grossi passi avanti da quel punto di vista, no? Cioè io penso che sia una cosa del genere, sì, insomma. Sì, una cosa che subito riescono a fare i disabili di ogni tipo di gravità, tipologia, e usare uno smartphone, cioè azzeccarsi allo smart, magari non si sanno allacciare le scarpe, ma ti sanno scancherare lo smartphone che non immagini. Quindi sì, è visto che ora praticamente c'è un super computerone a portata di mano con delle app apposite, spesso gratuite, proprio per supporto, che ne so, dal punto di vista linguistico, ma anche per quanto riguarda le routine e le emozioni, ce ne sono di migliaia di app, alcune carine, alcune meno, imparare a contare, queste cose qua. Comunque, cioè, è un supporto grandioso, per quanto possiamo dire che schifo gli smartphone, i giovani per colpa degli smartphone ora devastato, quando in realtà vabbè, poi magari pensiamo che viviamo un periodo di crisi economica, c'è la guerra, la pandemia, però la colpa è dello smartphone e va bene, c'ha le sue colpe, o dei videogiochi, o dei videogiochi, lasciamo stare. Ciao Cangini, se ci vedi ti vogliamo bene. Queste sono vecchie storie che comunque, tu non comunque c'è un supporto che per la sua natura, per la sua natura touch, altro, comunque è diventato quasi una dotazione naturale, cioè è assolutamente alla portata di tutti. E spesso viene usato, cioè comunque uno strumento fondamentale per quanto riguarda anche questa, cioè fa difficoltà come tutte le altre persone adulte o giovani a toglierlo di mano a volte quando devi fare qualcos'altro, però va bene ragazzi, meno male. Io direi che mi dispiace se magari io avrei continuato a parlare per altre due ore, ma insomma è un po' diventa un po' complicato. Allora io vi ricordo, allora prima volevo salutare anche Luca S che ha partecipato alla chat prima, tra l'altro, perché grazie alla sua donazione, diciamo, la Dunkirk del Runtime Radio forse non avverrà, perché come abbiamo già detto, voi sapete che il nostro è un progetto che dura da tantissimi anni, è tutto autosostenuto, tutto autoprodotto, però comunque il supporto anche delle persone che ci aiutano con le donazioni è sempre ben accetto, e questo mese in particolare, perché tutti gli advertising, tutte le pubblicità di Spreaker sono veramente arrivate al minimo storico, e quindi ringraziamo Luca per la donazione in più che ha fatto questo mese, perché veramente ci mette un po' una pezza per un mese ritornare ai tempi in cui andavamo sotto è un po' triste. Detto questo, se no comunque, se volete contribuire a Runtime Radio, basta andare su www.runtimeradio.it e cliccare sullo scheda anche io, e lì ci sono le due modalità tradizionali, ossia una donazione e una tantum su PayPal, oppure una donazione ricorrente su Patreon. Ma Francesco, diciamo, da oggi, e poi piano piano lo inseriremo anche nel sito, esiste anche un nuovo sistema, insomma, per contribuire, per offrirci un caffè, perché in questo caso potete donare senza nessun senso di colpa, nemmeno cioè anche un euro, perché questo euro non viene sgretolato da commissioni o tasse, cioè l'euro rimane in euro, giusto Francesco? Sì, in teoria dovrebbe essere così, per questo abbiamo sì. Che stai dicendo? No, mi fa ridere, in teoria dovrebbe essere così, così in teoria deve essere noi alziamo sempre le mani, le cose si applicano alle commissioni, però per quanto riguarda una donazione anche singola, ha detto così, con questo, con Ko-fi, che è un pochino simile a chi già conosce Buy Me a Coffee, solo che Buy Me a Coffee si prende di default una commissione del 5%, qui sulle donazioni non prende commissioni, quindi spesso, per esempio, quando su Patreon spesso si sconsigliava di donare un euro, perché poi arrivavano 20, 30, 40 centesimi, sì, esatto. L'euro rimane l'euro tondo, esatto. Al massimo forse qualcosa, cioè, ed è assolutamente facilissimo donare con questa piattaforma, perché non c'è bisogno di registrarsi né niente, semplicemente bisogna avere PayPal, perché si aggancia comunque al circuito PayPal, immettere quanto si vuole donare e via, e alla via così. Bene, ringrazio. Io ricordo che PayPal, per PayPal c'è anche il PayPal diretto, che non ci sono commissioni, sì, e si possono donare anche centinaia, sì, di migliaia di euro. Esatto, no. Sì, questo si aggancia al PayPal diretto praticamente. Ed è quello che succederà sicuramente, caro Davide. Comunque ringraziamo e salutiamo Carlo Sant'Agostino scusate, sono ubriaco stasera. Carlo Sant'Agostino, archeologia informatica, che tornerà penso con podcast e video prossimamente. Esatto, brevissimo, brevissimo. Esatto. Abbiamo un paio di video che ormai sono pronti. Sono quasi pronti, sì, esatto. Quindi ci vedremo presto sul canale YouTube e sul podcast di Archeologia Informatica. Comunque sul sito www.archeologiainformatica.it trovate tutti i link del caso, insomma. Davide Gatti. E non solo, mi aggancio a Carlo, ci vediamo anche sabato e domenica, sabato e domenica a Massa, alla GameX di Massa Carrara. Io ci sarò domenica, Carlo invece io sabato e domenica. Sabato e domenica insieme a tanti altri amici, sia di Archeologia Informatica che di Retro Campus e tante altre associazioni di retro cose, esatto. E ci sarò anch'io, per cui se volete farvi un giro domenica sarò lì bazzicante, e quindi vi ringrazio intanto per esserci e per seguirci. Bene, un saluto. Allora ringraziamo Francesco Di Muro. Vi ringrazio a voi. E vabbè, a me banalmente potete trovarmi soprattutto su Instagram. Ultimamente sto cercando di resuscitare i post, sto facendo delle storie che prima non le facevo quasi mai, le detestavo, però mo mi sto abituando a dire vabbè, sono brutto, amen, le faccio velocemente così, con lobby frontali, scritto così, lobby con la Y frontali tutto attaccato, mi trovate, e parlo soprattutto di neuroscienze, neuropsicologia e digitale, di come il digitale impatta sulle nostre cervelle, come possiamo fare in modo che impatti in modo positivo e non negativo. E ringraziamo, è sempre un piacere, insomma è già stato con noi su altri temi, altre questioni, ma è sempre un piacere sia incontrarlo quando quelle pochissime volte che mi capita, che ovviamente disquisire con lui. Alessandro Patroncini, ciao, grazie veramente del tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi, piacere reciproco. Aspetta, Alessandro, però vuoi parlare un po' della cooperativa brevemente? Giusto. Sì, non faccio lo stottone? No, a parte scherzi. Tra le varie cose che faccio, come prima diceva Francesco, che ero vicepresidente, non lo sono più perché non mi hanno cacciato, in realtà faccio anche altro. Cooperativa Sociale Rigenera, che è una cooperativa appunto di Reggio Emilia che si occupa prevalentemente di inserimento lavorativo, appunto rivolta a persone, diciamo così, non solo disabili ma con prevalentemente anche in carico al CSM, quindi con disturbo psichiatrici o cose del genere. E oltre a questo tipo di progettualità, la cooperativa si occupa di progetti, diciamo così, di comunità, di sviluppo della comunità, e con i quali mi è capitato ogni tanto di collaborare con Francesco, e tuttora insieme a Francesco sta conducendo delle cose in questo genere. Ci trovate su Facebook se vi va, la cooperativa Rigenera, ci sono altri nomi, ho visto, di Rigenera, quindi insomma siamo quelli di Reggio Emilia noi. Okay. Meglio precisare. Allora, perché ci è arrivata una fattura di una cooperativa che non eravamo noi, quindi insomma l'ho preciso. Hai fatto benissimo. Evidentemente abbiamo degli omonimi. Va bene, allora voi rimanete qui che adesso arrivo, vado a chiudere. Ci vediamo ragazzi domani mattina. Vi ricordo che su Runtime Radio dalle 7 alle 8 live la mattina, c'è Leo Varghion con Il Mattino Allora in podcast. Domani sera potrebbe esserci Runtime by Night, ma non è sicuro perché purtroppo abbiamo un'intervista importante da registrare, non sappiamo se facciamo in tempo. Sabato mattina invece dalle 8 e mezza alle 9 e mezza io e Michela De Paola con Disordinati Informati, e poi tutto il resto della settimana. Grazie a tutti per aver partecipato, grazie a tutti i miei amici che sono stati qua con me, e ci vediamo alla prossima puntata.